A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Prendere in giro i boss o metterli a nudo. Da anni il racconto della mafia passa anche attraverso uno schermo. E se il padrino resta tuttora il modello insuperato, sempre più spesso anche piccole produzioni puntano le loro luci sui segreti dei clan. Ed è lì che voglio portarvi in questa puntata un po' diversa di A ciascuno il suo, su due set tra Palermo e Napoli, con la storia di un siciliano che dimostra come sia possibile fare cinema senza pagare il pizzo, al contrario di quanto numerose inchieste hanno svelato, e con la vita di un ex ragazzo di strada, ex delinquente di Scampia, come si chiama lui, che dopo anni di droghe e carcere al servizio anche do sistema, cioè della camorra, diventa lui stesso l'occasione di un'alternativa per molti altri. Cominciamo dalla Palermo degli anni 70-80, straziata dalla guerra di mafia, ma che sembrava voltare la faccia a tutto quello che le succedeva intorno. Ci conduce Piff, Pierfrancesco Di Liberto, che da Iena diventa regista con La mafia uccide solo d'estate. Sì, anche. O solo, soprattutto. No, raccontare, in realtà era l'idea di raccontare la Palermo, la Sicilia, l'Italia negli anni 70-80-90, cioè come i siciliani e gli italiani vivevano e soprattutto i palermitani vivevano la mafia, che era molto così, un po' surreale, perché c'era questa, si tendeva a non riconoscere, non ammettere a se stessi che esisteva la mafia. Quindi la mafia non esiste, è questo? No, non esisteva, comunque non dava fastidio, nel senso la mafia dava fastidio solo a chi se ne andava a cercare. Questo era il drammatico verdetto, ma era un modo per non affrontare il problema, e quindi un bambino che nasceva in quel periodo poteva avere anche le idee confuse, ecco. La mafia uccide solo d'estate, che storia è? Abbiamo inventato la vita di un ragazzo che poteva essere la mia o poteva essere chiunque nato in quel periodo, che nasce negli anni 70, inizio degli anni 70, e quindi cresce fino ad arrivare al 92. Perché poi al 92 c'è un prima e un dopo, un avanti Cristo e un dopo Cristo, da questo punto di vista. E quindi è la vita inventata che si intreccia con i fatti reali. Quel mondo là, visto da un bambino, ha anche degli effetti comici, quindi si ride anche in maniera un po' drammatica, però si ride anche. Come si fa appunto a far ridere parlando di cose così drammaticamente serie, come la Palermo di quegli anni, che era una mattanza, si disse che era peggio di Beirut, tanti erano i morti, gli attentati che c'erano. Come sei riuscito a raccontare quella Palermo anche con l'ironia? Faccio qualche esempio. Se lo leggi ora è tutto molto più drammatico, però in quel contesto là, proprio come per reazione, non era così drammatico. Cioè c'era inconsapevolezza di quello che si stava vivendo da parte delle persone. Sì, c'era questo, te l'ho detto, c'era questo fatto che non si voleva ammettere a se stessi che c'era la mafia. Allora se ammazzavano qualcuno, in realtà succede anche adesso, però soprattutto in quel periodo, se ammazzavano un mafioso, c'era la drammatica frase, finché si scannano fra di loro. Quando ammazzavano uno che non c'entrava niente con la mafia, era un femminaro. Allora, questa è una cosa che il protagonista, a forza di vedere, di sentire un femminaro, pensa che fidanzarsi, cioè innamorarsi con una ragazza, di una ragazza, è rischioso, perché se no ti ammazzano. E quindi appena si avvicina una ragazzina, si capisce, c'è un feeling fra di loro, lui scappa. Oppure quando il compagnetto gli dice: i miei genitori stanno divorziando, lui dice: bravo, che fortuna che hai, i miei ancora stanno insieme, no? Così anche il titolo del film nasce da un tentativo di rassicurare questo bambino. Esatto. Rispetto al sangue versato. Esatto, in realtà era questa frase è uscita per sbaglio, perché io ho scritto a una mia amica, sto facendo un film dove prendo un giro un po' la mafia, perché ci sono episodi reali dove prendo in giro un po' la mafia, e lei mi disse: allora non scendi a Palermo. Io ho detto: no, ma tanto la mafia ci sono stata così per scherzare. E poi il mio produttore ha sentito questa frase, è bellissimo, l'abbiamo giustificata, ci è piaciuto così tanto, l'abbiamo giustificato, perché cioè, sì, è un modo che il padre per rassicurare il figlio, che non sa come uscirne, perché dice ma la mafia è pericolosa. Il padre dice Arturo, siamo in inverno, la mafia uccide solo d'estate, che è un modo per andare avanti, per prendere tempo in qualche modo, esatto. Qual è stata la maggiore difficoltà di girare a Palermo? E si sa che non è una cosa facile girare dei film a Palermo, ci sono state anche tante inchieste che hanno raccontato anche di come tutti quanti i produttori avessero cercato di fare telefilm fiction di vario genere, anche su storie di legalità, chi vuole storie dei grandi eroi dell'antimafia, abbiano poi dovuto sottomettersi o abbiano scelto di sottomettersi a regole di pizzo, di comparse imposte. Ecco, cominciamo da qui, questo tipo di difficoltà l'hai avuta anche tu? No, nel senso che io dopo, quando ho incontrato il mio produttore, ho detto questa è la sceneggiatura, e la seconda cosa è io non voglio pagare il pizzo, perché proprio non voglio, cioè piuttosto cambio mestiere, non avrei dormito la notte a fare un film, diciamo, antimafia e poi pagare il pizzo, che poi non ti chiedono più i soldi materialmente, ti dicono questo al tecnico deve essere questo qua, il capogruppo, le comparse devi prendere quello che dico io. Noi siamo andati con le idee chiare, innanzitutto la mia produzione ha appoggiato questa scelta, e non era una cosa scontata, perché appunto ci sono casi eclatanti di poliziotti antimafia, telefilm su poliziotti antimafia e poi che pagavano il pizzo. Addirittura anche di film su Falcone e Borsellino, insomma c'era anche tutta una storia di un personaggio che era quello che forniva le comparse un po' a tutti quanti i film, insomma la storia di Palermo è fatta anche di questo. Anche il catering lo dava, c'era il mafioso di Porta Nuova. E perché è più facile pagare e non avere problemi, questa è la mentalità che purtroppo c'è a Palermo, figurati uno che viene da fuori che non è che ha, cioè, chi se ne frega, io pago e ho risolto il problema. Noi siamo andati con le idee molto chiare, io mi sono circondato di gente che la pensa come me a Palermo, e abbiamo detto a tutti noi non pagheremo il pizzo, noi abbiamo detto decideremo noi chi fa il capogruppo, le comparse, noi non ci appoggeremo né con te né con l'altro, e devo dire che ha funzionato, nel senso che hanno tentato così in maniera anche un po' così blanda, tipo ogni tanto ci facevano delle telefonate e noi dicevamo no. Telefonate per dire se c'era la possibilità di assumere qualcuno nella produzione? No, dicevo domani il capogruppo, le comparse lo faccio io e il tecnico lo metti, licenzi quei due, questo all'organizzatore. E noi dicevo no, l'organizzatore no. Andiamo. Avete avuto delle minacce? No, non è neanche minacce, erano veramente cose blande, perché il problema grave è che, ecco, e queste persone qua sono legittimate dai produttori che vengono a Roma, cioè questi qua sono dei colleghi tra virgolette, fino a quando non li arrestano, come in parte è successo con Castagna, e tu li devi trattare come colleghi, e lui quando ti chiama non ti fa come il resto del mafioso, quando ti chiede il pizzo non ti chiede con la pistola, te lo dice sempre in maniera molto educata. Perché sono stati abituati fino adesso a far così. Sì, esatto. Loro sono stati legittimati da tutte le produzioni che venivano da fuori. La loro paura non è che io vado a Palermo e faccio un film senza pagare loro. Il problema è che la loro paura è che questo diventi la normalità. Cioè che qualcuno li possa scavalcare e non hanno più il controllo, esatto, del territorio. Esatto. Che tra l'altro quello che voglio fare. Cioè io dirò, io ho girato 4 settimane a Palermo e non ho pagato il pizzo. E questo si può fare facilmente. Ti devi avere degli anticorpi. Io mi sono chiamato i ragazzi di Addio Pizzo, i camion li mettevamo in un garage Addio Pizzo, l'albergo chiedevamo un'autocertificazione che dichiarava che non pagava il pizzo. Devi avete creato capire, un circuito. Esatto, devi far capire che non sei solo e lo devi dichiarare subito, esattamente come fanno i negozianti quando mettono il marchio, l'adesivo Addio Pizzo. Che funziona, infatti ci sono pentiti che dicono noi quando chiedevamo, facevamo il giro e chiedevamo i soldi per il pizzo, quando vedevamo il marchio Addio Pizzo ce ne andavamo, perché ero più rotture di scatole che altro. Quindi è possibile farlo in qualche modo, questo film nella dimostrazione. Cioè ognuno faccia il suo nel suo campo, nel mio piccolo contribuisco come i negozianti Addio Pizzo a fare una piccola rivoluzione a Palermo. Ripeto, lo dico, si può girare a Palermo senza pagare il pizzo. Dopo di me c'è stata Immadante, pure loro hanno avuto questo atteggiamento qua, che era più o meno la stessa produzione. Quanto ti sei divertito a prendere in giro la mafia anche? Ma sì, c'era una piccola soddisfazione inutile, voglio dire, non so quanto contribuisca la lotta vera e propria, però perché nel film, oltre a questo, a quello che ti ho raccontato, ci sono degli episodi reali che sono successi, presi da intercettazioni o pentiti, che ti fanno capire quanto quella cosa tremenda, quanto il mafioso alla fine è esattamente come noi, che so, Rina che non sa come funziona il telecomando del condizionatore o delle cretinate di vita quotidiana che noi abbiamo ribattezzato come vita quotidiana, ti fanno capire quanto sono, cioè questa è la cosa che fa paura, il mafioso non è una cosa, un altro pianeta, è esattamente come te. Sì, però per chi ha costruito anche la propria carriera criminale con questa immagine da uomo questo, duro, di impeccabile, così certo, essere preso in giro perché è un imbranato col telecomando. Fortunatamente stiamo parlando di mafia di una volta, perché ci fermiamo nel 92, spero che non che sia tutti in carcere, almeno che i carceri non proiettino il film, perché magari qualcuno si può arrabbiare, però sì. Sai, quelli si arrabbiano di più per queste cose, sì, è uno sgarro. Però è veramente una mafia, che una generazione di mafia che veramente o è morta o in carcere, quindi non lo so, speriamo che non vedano il film. La risata di Piff è forse la vendetta principale che un ex ragazzo palermitano cresciuto negli anni della guerra di mafia si riprende oggi su quei boss che ha preso in giro. Ma il mondo della malavita organizzata può essere anche raccontato direttamente da chi ne ha fatto parte, ed è quello che sentiremo nella seconda parte di A Ciascuno il Suo, trasferendoci a Napoli. A Ciascuno il Suo. Quando incontro Gaetano Di Vaio lo riconosco subito. Oggi punto di riferimento per tanti ragazzi a rischio della periferia nord di Napoli, un tempo lui stesso spacciatore e delinquente, per dirla con le sue stesse parole, al servizio pure del sistema, la camorra cioè. È la sua voce roca che mi fa rivedere subito dietro quest'uomo un po' appesantito, che non spegne una sigaretta prima di averne acceso un'altra, colui che mi aveva accompagnato anni fa agli albori della prima faida di Scampia tra le piazze di spaccio delle Vele. Gli angoli di quella disgraziata area settentrionale di Napoli, lui, Gaetano Di Vaio, li conosce a menadito, perché era solo un ragazzino quando, dopo anni di riformatorio, di collegi e un periodo pure in un centro di igiene mentale, si impossessa di un suo spazio per gestire la droga. E cominciò da lì la sua prima vita, quella prima della conversione in un certo senso, prima cioè della scoperta del lavoro e dell'impegno sociale. Cominciò da lì, dall'eroina e dai soldi, tanti, la sua carriera criminale, che ora racconta in Non mi avrete mai, per mostrare ai ragazzini di Scampia che è possibile trovare un'altra strada. E questi stessi ragazzini lui ora li porta sullo schermo a Venezia, dove già ha vinto il Leone per i Giovani con La bella educazione criminale. Davanti alla telecamera per lui anche il figlio di un boss potente. A tutti loro, innanzitutto Gaetano, racconta la sua storia. Inizialmente piccoli furti, che ne so, ruote di scorta, batterie dalle macchine, stereo, per poi piano piano cominciare con qualche rapina, qualche scippo, fino al piccolo spaccio di droga e poi anche la tossicodipendenza, che è stata quasi una, come si dice, un tragitto naturale. Tutto questo anche al servizio dei boss della zona? Perché sia quando ero un criminale, un delinquente, perché ripeto sempre questa parola, no? Sono solo un delinquente. Perché a Napoli si usa così, questa è un'espressione napoletana per dire un delinquente, che sembra quasi sminuire il significato, però in realtà non... No, in realtà certo ero uno che, infatti ho usato io stesso la parola criminale, ma criminale nel senso non sono stato mai affiliato alla camorra, ecco, se questa è la domanda. No, perché... Però in qualche modo c'era qualcuno che si serviva di lei? Assolutamente sì, ma diciamo io sono anche uno che si è servito degli altri nella vita, nel senso che... In che modo si servivano di lei? Che voleva dire? Che cosa le chiedevano di fare? Di spacciare, spesso, o magari se avevano bisogno di un'auto, di una motocicletta, questo è quello che ti può chiedere il sistema. Ma a me più che chiedermi di spacciare sono stato io che chiesi, allora avevo 16-17 anni, di poter spacciare, che spesso è anche così, è anche il contrario, non è che sempre la camorra viene da te, spesso sei anche tu che vai dalla camorra. Dove lo facevi, in quale piazza di spaccio? Il quartiere era Piscinola, che è praticamente a ridosso di Scampia. E quanto ti pagavano per quello che facevi? No, avevo una mia percentuale sulla vendita di bustine. Quanto era questa percentuale? Diciamo su una bustina che all'epoca, io ti parlo degli anni 90, costava 40.000 lire, io ci guadagnavo 10.000 lire su ogni bustina. In una giornata facevo anche 400-500 euro. All'inizio me li sono, tra virgolette, anche goduti questi soldi a quell'età, cioè non spendendoli con la droga. Però poi piano piano ho cominciato ad assaggiarla e i soldi che guadagnavo non bastavano più nemmeno per pagare chi mi dava droga. È così che passai dal passaggio di vendere la bustina a comprare a 100 grammi, 50, 150, ed ero io stesso a gestire una piccola piazza in maniera del tutto indipendente. Quali erano le famiglie, diciamo, che in qualche modo erano presenti, operanti negli anni in cui spacciava o aveva una sua piazza di spaccio? Cioè erano gli anni della prima faida? No, erano precedenti, no, no, la prima faida? Anni 90 parliamo, era il dominio di Licciardi, del clan Licciardi, non c'era Di Lauro, poi diventato così famoso. Quegli anni lì erano gli anni di Gennaro Licciardi, che era il super boss, era quello che assieme ad Carmine Alfieri, ai Nuvoletta, stavano fondando la nuova mafia campana. Quella è l'epoca in cui io mi sono, diciamo, avevo a che fare, ovviamente non con quei boss lì, però con altri boss di seconda fascia, cioè quelli che più controllavano i quartieri come Piscino, la Marianella, Scampia, Chiaiano, tutta l'area nord di Napoli, diciamo. Per questo lei è stato anche arrestato? Sono stato arrestato per spaccio di droga, per rapina, e ovviamente la camorra mi ha chiesto a un certo punto di... cioè io, come si suol dire, ho avuto la famosa proposta, no? Proprio letteralmente. È formulata come? Era Natale, questa piazza dove stavo io, che gestivo, ripeto, in maniera indipendente, andava molto bene e altre piazze cominciavano ad andare bene. Questo boss che era uscito, si chiama Gaetano Stabile, che adesso credo che stia in galera, che era il capoclan di Marianella, del quartiere di Marianella, mi manda a chiamare a me, così come gli altri capopiazza, a cui lui forniva droga, però non erano affiliati. Ed era Natale, dopo un anno che lui era uscito, il suo piccolo clan cominciava ad essere più forte, e disse: io adesso sono in grado di cominciare a riconoscere, oltre a quello che voi guadagnate per i fatti vostri, a riconoscere io stesso un settimanale, un mensile. E mise questi soldi sul tavolo. Questo passaggio qui lo racconto nel romanzo. E di fronte, io dissi: guarda, a me non servono questi soldi, è più giusto che li dia a qualcuno che ne ha bisogno. E disse: ma è un rifiuto? No, non è un rifiuto, penso che io ne guadagno veramente tanti. Effettivamente ne guadagnavo tanti, non avevo bisogno anche dei suoi, ma prenderli significava poi essere del clan. Io gli ero molto simpatico a questo qui, cioè uno, sai, quando uno ti perdona tutto, quindi sapevo che potevo dirgli quello che stavo per dirgli, e gli dissi: anche perché poi se a me dai una pistola in mano io non so sparare. Questa battuta, lui si mise a ridere e non ha insistito sulla richiesta. Quelli che erano presenti con me, due o tre accettarono. Un paio sono morti, qualcun altro sta in galera oggi. È stato possibile dire di no ad un arruolamento, diciamo. Ecco, il cambio di vita come avviene, quando avviene? Il cambio di vita è avvenuto in carcere a Poggio Reale. Avevo pigliato una condanna a 8 anni e 2 mesi per spaccio di droga. E nel frattempo, siccome l'ultima fase che precedeva all'arresto mi ero devastato di cocaina e di eroina, cioè tutte le braccia, mi ero diventato uno scheletro, una larva umana, cominciavo a non pagare più la droga, quindi rischiavo anche la vita di essere ammazzato dai fornitori, diciamo. Mi arrestarono, fino in galera. Quando ho riacquistato lucidità dopo tipo 1 o 2 mesi, mi resi conto del disastro che avevo combinato a me stesso e del disastro che avevo lasciato fuori. All'epoca avevo sposato una ragazza di 16 anni che aveva avuto un bambino. Le è venuto uno scrupolo, diciamo, un ravvedimento. Cioè, ho sofferto molto per questa situazione qui di povertà sua fuori col bambino. Passato qualche anno dove cercavo una soluzione, e nel carcere scrissi una lettera al boss dal carcere, allo stesso boss a cui avevo rifiutato i soldi, e questo lo racconto nel romanzo, dove gli chiedevo l'affiliazione. Ovviamente non in questi termini qua, nella lettera scrissi solo: se aiuti mia moglie e mio figlio, quando esco sono a tua disposizione. Questa lettera l'ho scritta di sabato, appoggiare la posta la ritirano la domenica sera, non il sabato. Il sabato ho lasciato questa lettera lì nella cassettina sotto alla cancella che passa poi la guardia e si piglia la lettera. E questa notte, che descrivo poi nel romanzo, è stata una notte abbastanza travagliata, sì. Sicché la mattina a un certo punto il libro si apre così, proprio che dice caggia fa la giamannono, la mattina strappo questa lettera, ne scrivo una nuova e scelgo di scrivere al comandante delle guardie di Poggioreale. E gli chiedo di lavorare in carcere. Sentivo in carcere gli altri lavoranti all'epoca, parlo del 1990, un detenuto lavorante guadagnava 1.100.000 al mese, la paga sindacale come fuori, oggi non è più così, è cambiato tantissimo, però all'epoca questo comandante mi manda a chiamare, alla fine mi dà questo lavoro. Cioè il lavoro in qualche modo l'ha salvata, le ha aperto una nuova, una diversa strada di vita. Sì, questi soldi che pigliavo ogni mese, 800 li mandava a lei a casa, e 400 li trattenevo per me o 300, poi dipende. Però in realtà poi il vero incontro è stato proprio in una cella, perché diventando detenuto lavorante mi cambiarono cella, mi tolsero dai cosiddetti comuni e mi misero in questa cella dove c'era sta persona che scopro poi dopo che è uno che aveva studiato. Io non lo sapevo, vedevo solo che questo non parlava mai, stava sempre per i fatti suoi, sempre sul letto, non dava confidenza agli altri. Noi in una cella eravamo anche 20 persone a Poggioreale, tutto è così, sul piano del sovraffollamento. E questa persona non parlava mai. Allora io mi incuriosivo e ogni tanto andavo vicino, mi sedevo con lo sgabello mio vicino alla branda su e lo, si dice a Napoli, ci fruculeava. Oh, ma perché non parla mai? E dai, dici qualcosa. E lui dice, no, ma io non parlo perché non ho niente a che spartire con questo mondo. Comunque nasce questa amicizia con questa persona che io penso sia stata determinante comunque. Ecco, a un certo punto poi l'ex, diciamo, spacciatore di Scampia e Piscinola, l'ex uomo quasi affiliato alla camorra, ma mai davvero affiliato, insomma, quello che un tempo era un ragazzo delinquente, decide invece poi di fare qualcosa per gli altri ragazzi del suo quartiere per evitare che loro stessi diventassero delinquenti. La strada qual è? Qual è il percorso che sta facendo con i ragazzini della periferia nord di Napoli? Ma diciamo che dopo aver fatto il teatro con Peppe Lanzetta, che da lì proprio ho cominciato, innanzitutto la fase iniziale era per me stesso, questo è giusto precisarlo, ma a un certo punto mi sono reso conto che potevo andare un po' oltre, diciamo, me stesso, e quindi ho cominciato a fare varie attività, da cineforum, laboratorio di audiovisivo, sia con giovani del quartiere, sia nel carcere minorile di Nisida, dove ho lavorato per 4 anni, facendo cineforum, portando anche nomi importanti come Locascio, Francesco Rosi, Martone, coinvolgendo un sacco di artisti di primissimo piano. Ecco, e coinvolgendo i ragazzi della strada, in che modo e qual era l'obiettivo? Come in qualche modo questo tipo di attività fanno sì che i ragazzi abbiano meno possibilità di finire invece nei giri della droga e nei giri al servizio dei boss? Basta semplicemente starci assieme con i ragazzi, semplicemente una parola semplicistica, ma semplicemente nel senso, io personalmente ho avuto il vantaggio di avere l'esperienza alle spalle, per cui loro mi riconoscono immediatamente. L'ultimo film mio è proprio sui giovani, che ho fatto da produttore e regista, si chiama Largo Baracca, e racconta la storia di questi 7 ragazzi dei quartieri spagnoli che si trovano proprio di fronte alla scelta tra il crimine e un'opportunità che gli viene offerta, e lì cerco di dimostrare come loro di fronte all'opportunità scelgono l'opportunità. Il punto è che queste opportunità non vengono offerte quasi mai. Quest'anno c'è un debutto a Venezia, da produttore sono riuscito anche a vincere il Leone a Venezia, quello dei giovani, con il film La Baia Educazione Criminale, che racconta la strage di Castelvolturno, quello dei casalesi contro i ragazzi africani. Gruppo Setola contro gli africani di Castelvolturno. Esatto, e poi quest'anno invece abbiamo un film più di genere, si chiama Take a Five, ed è proprio la storia di 5 banditi che vogliono fare, 5 persone sono banditi, vogliono fare il colpo della vita e quindi entrano in una banca attraverso le fogne di Napoli. In realtà lo stesso colpo diventa poi un pretesto per raccontare questi 5 personaggi. C'è Salvatore Ruocco, che è anche lui un ragazzo che da ragazzino faceva gli incontri clandestini con un boss che lo sfruttava in questi incontri. Io nel mio film attuale Largo Baracco, c'è il figlio di uno dei boss più potenti di Napoli, Mario Savio, dei quartieri spagnoli. Il figlio è protagonista del mio film. film. Non ha creato alcun genere di problemi? Cioè... Lui stesso ne è uscito con tutto che all'ergastolo, però poi ha fatto delle lettere all'epoca dalla prigione e diceva ai figli di non diventare boss come lui. Per riascoltare tutte le puntate di A Ciascuno il Suo, il sito è radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul blog Storiacce. Su Twitter l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto.